Infatti rispetto a questa cosa qua, una cioè proprio mi viene di pancia rispetto alla situazione proprio abbiatense, no? Rispetto a quelle che sono le nostre esperienze più legate appunto al Pajanmuz, quindi al piano Sogef, o appunto anche all'esperienza della lista civica. Nel senso che la roba forte e importante di queste esperienze qua, cioè non è tanto poi il fatto di, veramente lo dico di pancia, non è, cioè il fatto di perdere le elezioni è chiaramente una sconfitta da un punto di vista dei principi democratici diciamo così, della competizione elettorale, ma io penso che sia molto più importante, molto più incisiva nel territorio il fatto che comunque si creano delle relazioni, delle battaglie, che quello trasforma indipendentemente poi dal risultato elettorale. Quindi la battaglia sul Sogef è fondamentale per quello che produce. La lista civica è fondamentale non tanto vincere o perdere, ma è importante per quello che produce. E in questo momento anche all'opposizione noi abbiamo delle possibilità di costruire del cambiamento in una porzione di territorio e di farlo indipendentemente che si è vinto o si è perso l'elezione. Cioè, come Folletto almeno, sentiamo e lo sento, lo vedo che le cose funzionano nel momento in cui si innesca quello che poi ci hanno raccontato tutti, l'hanno raccontato tutti in diversi, con diversi sguardi, ma è quello, non lo so, questo lo dico proprio più come sguardo su ad Abbiategrasso, che è anche un po' un superare, anche poi non so, cioè uno spunto rispetto a una riflessione sul dire che cosa produce cambiamento, che cosa produce trasformazione. Io penso che appunto la battaglia della no tangenziale, chiaramente con, cioè la forza lì non era, se si fosse stato Domenico sindaco di Cassinetta da solo, non avrebbe prodotto una trasformazione in quello che sono le, poi la quotidianità, la nostra cultura, il nostro stare insieme, se non ci fosse stato i comitati, le battaglie, quella cosa lì, che tanto è vero che poi ha prodotto altre cose. Quindi cioè quello per sottolineare l'importanza di alcuni processi che, almeno come Folletto, possiamo dirlo tranquillamente che non è poi tanto importante. Chiaro che quella roba lì, come appunto se ci fosse un Domenico sindaco, ma però Domenico sindaco con un ceto politico che poi sia legato a un partito o legato alla lista civica, ma se poi dietro quella roba lì non c'è una quotidianità che attraversa Abbiategrasso e la cambia per quello che sono i rapporti, forse sarebbe un'esperienza povera che non produrrebbe una vera trasformazione. Secondo me in quello che, cioè lo specchio della Valsusa rispetto a quello che è poi l'esperienza nei territori, secondo me è questo tema qua, che poi può essere declinato in diverse forme e differenti, però i dispositivi forse sono identici, no? Nel senso, o comunque simili nel poi produrre veramente trasformazione, e lo sento, nel senso che comunque in questi mesi, non so se adesso stiamo facendo un po' più, però rispetto ad Abbiategrasso il fatto che comunque ci sia stata quella lista civica lì non ha tanto il discorso perdere o vincere, ma il fatto che comunque alcune robe, alcuni meccanismi sono, li abbiamo fatti saltare, indipendentemente che, chiaro, poi se eri di là con gli assessori piuttosto che i consiglieri comunali avevi degli strumenti in più, però non è, e quello secondo me è da, come non sottovalutare il fatto che non è importante poi quello, cioè è molto più importante quello che sta succedendo quotidianamente dentro qua, cioè il fatto che comunque la gente del quartiere, gli abbiatensi, le mille firme, che le persone si sono affezionate, hanno capito che questa, lo dicevamo oggi con Job, no? Cioè una porzione di territorio come questa qua della Sogef ci avevano fatto credere fino all'altro ieri che era un'area dismessa dove c'era il pattume, noi abbiamo, e quello è l'immaginario che ci davano loro, noi utilizzando gli strumenti dei consiglieri comunali, dei cittadini, della gente del quartiere, abbiamo costruito un immaginario diverso di quella porzione di territorio, e lì si è creato un cambiamento che ha messo l'amministrazione comunale a dire vabbè, forse ragioniamo diversamente, allora rivedo il master plan, e quelli sono i meccanismi secondo me, cioè della politica vera, o comunque quello che ci interessa, che lì produce cambiamento indipendentemente poi che da quello che succede. Questo un po' come auspicio e come senatore Carini.